GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Case vuote in regione, escluse le seconde abitazioni e quelle inagibili, sono 100.000. Costruzioni e servizi trainanti, frena la manifattura, accesso al credito difficile per le microimprese. Incendio di un camion sulla 4 all'altezza dello svincolo di Villessa, in salvo gli autisti. Contrabbando di sigarette, coniugi residenti in Svizzera arrestati a Pontebba. 30 anni di impegno per la comunità, medaglia di civica benemerenza alla Fondazione CR Trieste. In 30.000 visitano a Trieste lo stand del comune sul progetto Porto Vecchio, Porto Vivo. Trieste e Italia è inaugurata la mostra della Lega Nazionale nel Palazzo della Regione. 12:31, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Apriamo questo giornale radio parlando di economia della regione trainata ancora da costruzioni e servizi mentre rallenta il manifatturiero. La Camera di Commercio di Pordenone Udine ha presentato i dati dell'Osservatorio sull'economia del Friuli Venezia Giulia, tasto dolente, le difficoltà di accesso al credito delle microimprese che sono la maggioranza. Del prodotto interno lordo sarà in linea con la media nazionale, ma l'industria tornerà a crescere solo dal 2025. Inoltre calano export e assunzioni. L'analisi e le proiezioni sono dell'Osservatorio sull'economia del Friuli Venezia Giulia, del Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine, che semestralmente elabora i dati dei principali dati statistici del territorio regionale. Il quadro non è roseo, ma assicura il senior partner di Prometeia, Alessandro Carpinelli, possono esserci margini. Non è una crisi, è un rallentamento parallelo a tanti altri rallentamenti. Le imprese in questo momento investono meno perché hanno meno sicurezza su due paradigmi molto importanti che hanno sorretto la loro crescita negli anni scorsi. Si vede meno export e la domanda interna non cresce così tanto come ci si era aspettati. Il risultato è minore richiesta di personale, minore richiesta di credito, investimenti più rallentati. Vedremo nei prossimi anni gli impatti di questo inverno un po' anticipato. Tra i nodi più gravi da sciogliere in regione, quello dell'accesso al credito delle micro e piccole imprese. Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine. Continua, anzi è peggiorata la situazione in particolar modo per le micro e le piccole imprese di accesso al credito. Per una regione dove il 95-96% delle imprese sono micro e piccole imprese, questo è un problema. Udine, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono circa 100.000 le unità immobiliari in regione che risultano vuote su un totale di 738.000. Un dato è segnalato nel report della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Il tasso più alto di non occupazione immobiliare si rileva nella provincia di Udine, oltre il 27%, e il picco è in Carnia, dove si arriva al 53%, cioè una casa su due. Cala la popolazione, si svuotano le case. Impietosa la fotografia scattata dal Centro Studi Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali sugli effetti dell'inverno demografico sul mercato immobiliare. Dall'incrocio dei dati dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni emerge che in regione le unità immobiliari abitative censite sono 738.000 per 568.000 nuclei familiari registrati, uno scarto di circa 170.000 abitazioni con le luci spente, circa il 23% del totale, che al netto delle seconde case ad uso turistico, quelle cioè non occupate da residenti e inagibili, corrisponde a circa 100.000 case non utilizzate. Nell'ex provincia più vasta, Udine, si rileva il tasso più alto di non occupazione immobiliare, oltre il 27%, seguono Pordenone al 20,7%, di poco più indietro Gorizia al 20% e infine Trieste al 17,50%. Tra le macro zone osservate speciali spiccano la Carnia col 53% di case non occupate, una su due. e il Cividalese con le valli del Natisone, circa il 31%, una casa su tre vuota. Buona invece la tenuta della conurbazione udinese, gli 11 comuni a confine con la città di Udine fanno segnare un tasso di non occupazione di circa il 14% contro il 15% della sola Udine. La riprova che le città capoluogo continuano a fare da calamita, e questo ripropone il problema dell'assenza di servizi indicato tra le concause dello svuotamento di certe zone, indicatori coi quali in prospettiva il mercato immobiliare dovrà fare i conti. Cambieranno radicalmente le dinamiche, osserva il vicepresidente nazionale FIAIP Leonardo Piccoli, esprimendo preoccupazione sulla tenuta del valore immobiliare nelle località che già registrano i dati peggiori sullo svuotamento. Guardando l'andamento demografico e alle proiezioni per i prossimi anni, il quadro è ancora più allarmante, afferma Piccoli, per il quale, oltre a misure a sostegno della natalità, serve soprattutto incentivare la residenzialità delle giovani coppie sotto i 30 anni. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un camion ha preso fuoco nella sua parte rimorchio intorno alle 9 di questa mattina in A4, poco prima dello svincolo per Villesse in direzione Venezia. I due autisti si sono messi in salvo lasciando il mezzo sulla corsia di emergenza. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra da Monfalcone e un autobotte, hanno provveduto a spegnere l'incendio. Ci sono stati rallentamenti alla circolazione. Controlli antidroga dei carabinieri di Aviano nel comune di San Quirino nel corso della passata settimana, rivolti soprattutto a contrastare spaccio e consumo di stupefacenti tra i più giovani. Diverse le ispezioni alle fermate di autobus e corriere condotte con i carabinieri cinofili di Torreglia, Padova. Proprio in uno di questi controlli, effettuato poco dopo le 7 presso a una fermata dei mezzi pubblici che portano gli studenti a Pordenone, il pastore tedesco Zico è entrato in azione, ha individuato dello stupefacente di cui un 17enne stava tentando di liberarsi dopo aver visto i militari. Il giovane è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il minorenne segnalato alla prefettura di Pordenone. Gli è stata ritirata la patente di guida per motocicli. Verifica dei militari anche per il contrasto dell'abuso di alcolici da parte dei conducenti di autoveicoli. 3 i casi emersi: un 59enne sanquirinese è stato sorpreso a bordo del suo motociclo senza casco, senza assicurazione. Il mezzo inoltre non era revisionato e all'uomo era già stata sospesa la patente per mancanza dei requisiti psicofisici necessari. Inoltre aveva un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro. È stato denunciato con sequestro e fermo del motociclo. Segnalato anche un 30enne di origine macedone residente ad Aviano, cui è stata ritirata la patente, e un 26enne di Aviano che aveva un tasso pari a 0,20 grammi litro, ma che è stato comunque segnalato all'autorità giudiziaria in quanto neopatentato. Traffici illeciti internazionali. I carabinieri del Norma di Tarvisio hanno arrestato in flagranza 2 contrabbandieri di nazionalità turca e mongola per aver importato illecitamente nello Stato tabacchi lavorati esteri. Nell'abitato di Pontebba i militari avevano notato 2 vetture con targa svizzera che, dopo che si erano accorti della loro presenza, avevano invertito il loro senso di marcia nel tentativo di sottrarsi al controllo. Le auto sono state raggiunte e fermate. Nel bagagliaio di una c'erano 200 stecche di sigarette per un peso complessivo di 40 kg. Il primo veicolo, una utilitaria con a bordo 2 cittadini turchi muniti di regolare visto di 26 e 31 anni, faceva da staffetta. I 2 sono stati denunciati a piede libero. Arrestati invece gli altri 2, un 58enne e una 42enne sposati, residenti in Svizzera con regolare permesso di soggiorno, fermati a bordo del veicolo utilizzato invece per il contrabbando dei tabacchi. Arrestato dalla squadra mobile di Udine un cittadino italiano di 43 anni, trovato in possesso di un finto documento di identità. L'uomo aveva tentato di acquistare una bici da 4.500 euro in un negozio di Via Caccia, Udine, con un finanziamento che non era però andato a buon fine. Il suo atteggiamento all'uscita del negozio ha insospettito gli agenti, che lo hanno fermato mentre saliva sulla macchina guidata da un secondo uomo. Al controllo dei documenti dei 2, la carta d'identità di quello che aveva tentato l'acquisto è risultata falsa ed intestata ad una persona inesistente. I poliziotti hanno accertato che l'uomo era dedito a questo genere di truffa, acquistare cioè beni di valore con finanziamenti a carico di persone diverse o inesistenti di cui esibiva documenti e buste paga falsi. È stato anche trovato in possesso di uno smartphone di alta gamma, acquistato con il medesimo raggiro il giorno prima a Treviso. Residente in un'altra regione, l'uomo è stato arrestato e denunciato per falsità materiale e per tentata truffa in concorso con l'autista, un altro cittadino italiano. Nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Udine, il foglio di via obbligatorio. Le famiglie con bambini in regione faticano a trovare babysitter, un'aumentata richiesta da parte di genitori che lavorano e genitori single tra le ragioni, ma soprattutto le difficoltà di un mestiere che passa quasi tutto attraverso il passaparola. Per aiutare le famiglie nella ricerca, la regione mette a disposizione lo sportello Sii con te. Lavorare e avere un figlio, una missione difficilissima per molte famiglie, soprattutto per chi non ha i nonni ad occuparsi del nipotino. Ecco allora che assume un ruolo fondamentale la figura di una babysitter. Trovarla però non è facile, le disponibilità arrivano quasi tutte attraverso il passaparola, ma la regione ha anche uno strumento dedicato, che è il servizio Sii con te. La referente Ilaria Dal Corso. Servizio Sii con te, tra le altre cose, si occupa anche di intermediazione, domanda e offerta di lavoro in ambito domestico, attraverso una rete di sportelli territoriali che sono dislocati su tutta la regione e che sono posizionati all'interno dei centri per l'impiego. Gli sportelli aiutano le famiglie a trovare la babysitter che corrisponda alle loro esigenze. La complessità spesso è legata alla tipologia della richiesta che arriva, al suo grado di criticità, anche magari sia nel tipo di assistenza che nell'orario. E spesso anche la criticità sta nel luogo da cui arriva la richiesta, nel senso che per richieste su comuni delocalizzati, per esempio, è più difficile trovare una risposta. Si può poi stipulare un contratto di lavoro domestico o servirsi del libretto famiglia dell'INPS. Ecco un esempio dei costi. Se parliamo di contratto, la babysitter costa 6,22 euro all'ora, con maggiorazione se l'assistenza è rivolta a un bambino in fascia 0-6 anni. 10 ore di babysitter la settimana sono circa 450 euro al mese per la famiglia. Se parliamo di libretto famiglia, retribuzione fissa 10 euro all'ora, di cui 8 sono la retribuzione della babysitter e 2 contributi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. In riconoscimento del forte impegno verso l'intera comunità triestina in occasione dei 30 anni di attività, la Fondazione CR Trieste ha ricevuto la medaglia di civica benemerenza del comune. A ritirarla è stato il presidente Massimo Paniccia. Chi è generoso pensa al futuro. Queste le parole del presidente della Fondazione CR Trieste, Massimo Paniccia, nei ringraziamenti per il conferimento della civica benemerenza, ricordando anche il forte senso di squadra che da sempre ha contraddistinto l'impegno dell'ente filantropico. In 32 anni di attività la Fondazione CR Trieste ha messo a disposizione della collettività 204 milioni di euro, supportando 5.519 interventi. Il sindaco di Piazza ha ricordato le opere pubbliche più importanti supportate da Fondazione CRT, tra queste l'ex magazzino Vini, la pescheria, ora Salone degli Incanti, l'ospedale militare diventato studentato. Tra il primo cittadino e Paniccia, presidente e amministratore delegato della Solari di Udine, un'amicizia di lungo corso, ma soprattutto un forte amore per la città di Trieste. Paniccia lo ha espresso anche per iscritto, un momento straordinario della fondazione sempre vicini alla città e grati a questa amministrazione per la storia che ci ha visto insieme crescere con la nostra città amata. Massimo Paniccia. 30 anni per me straordinari, vicino a una città, vicino al sindaco, vicino al consiglio, vicino soprattutto ai cittadini. 30 anni in cui abbiamo cercato di farla crescere per lo sviluppo socio-economico. Speriamo di aver fatto bene. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. Investimenti per oltre 1 milione di euro entro il 2026 per il neonato distretto del commercio delle terre e delle acque che gravita su Cervignano del Friuli. Sentiamo. Un territorio con una popolazione di 26.463 abitanti e una superficie di quasi 120 km quadrati, un'area con enormi possibilità di sviluppo, un contesto strategico che tocca importanti percorsi turistici tra Palmanova ed Aquileia. Queste le credenziali del Distretto del Commercio delle Terre e delle Acque, presentato in municipio a Cervignano da Cat Confesercenti Udine e dal Comune. Con le sue 500 attività commerciali ha un obiettivo di creare sinergie tra operatori del settore per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, favorire lo sviluppo economico locale, promuovere il territorio. A Cervignano, ente capofila del progetto, si affiancano i comuni di Campolongo Topogliano, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda Terzo di Aquileia. Il progetto, ha spiegato il manager del distretto Stefano Zuliani, prevede investimenti per oltre 1 milione di euro da portare a termine entro il 2026. Tra questi il rinnovo e l'arredo dell'ambiente urbano, creazione di zone pedonali, riqualificazione di aree destinate a sagre e mercati e poi forestazione urbana, mobilità sostenibile, attività di comunicazione e marketing. Dopo aver gettato le basi del progetto, il prossimo passo sarà ascoltare le esigenze delle imprese del territorio, ha annunciato Zuliani. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nelle settimane della Barcolana e della Corsa dei Castelli sono stati oltre 30.000 i visitatori dello stand allestito dal Comune di Trieste in Piazza dell'Unità per presentare il progetto di rigenerazione urbana Porto Vecchio-Porto Vivo attraverso una serie di video proiettati su monitor. I cittadini hanno potuto anche porre domande e curiosità al personale comunale e approfondire i dettagli del piano grazie al plastico interattivo attraverso l'utilizzo di QR code e grazie alla realtà aumentata. Sempre allo stand, ricorda la nota del comune, è stato presentato ai cittadini anche Digitale Facile, il servizio che utilizza i fondi PNRR per aiutare l'inclusione digitale con particolare attenzione ai servizi online che riguardano la pubblica amministrazione. Ora adesso diamo uno sguardo al tempo, con cielo in genere variabile sulla regione. Queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste 19 gradi, a Gorizia e a Pordenone 18, a Udine 17 gradi e 5 decimi, su Piancavallo 11 gradi e mezzo, a Sappada e Tarvisio 14 e Fuori di Sopra 14 gradi e mezzo, a Tolmezzo 16 gradi. Sul Monte Lussari 10 gradi, sul Zonculan 8 gradi e mezzo, sulla costa a Grado 17 gradi e mezzo e a Lignano 18. Le previsioni dell'ARPA nelle prossime ore: cielo in prevalenza variabile con progressivo aumento della nuvolosità, possibilità di nubi basse in serata sulla zona montana. Domani cielo in genere coperto, nuvoloso sulla fascia costiera, saranno possibili piogge intermittenti più probabili dal pomeriggio sulla zona montana e orientale. Sulla costa e sulle zone orientali dal mattino soffierà borino, dal pomeriggio bora anche moderata. Immagini fotografiche, giornali, poster, opere d'arte, modellini e cimeli. Inaugurata nel Palazzo della Regione in Piazza dell'Unità, 26 ottobre 1954, Trieste e Italia, la mostra. Sentiamo. Era una giornata fredda di bora e pioggia quel 26 ottobre 1954, ma ciò non impedì ai triestini di scendere in piazza per accogliere l'ottavo reggimento bersaglieri, primo reparto ad entrare in città. Una folla di donne e uomini che salutavano la fine dell'occupazione straniera. Trieste tornava italiana. Ricco il programma delle celebrazioni per questo anniversario pieno. Tra le iniziative, una mostra storico-fotografica inaugurata nella Sala delle Colonne, nella sede della Regione in Piazza Unità, organizzata dalla Lega Nazionale e indirizzata in particolar modo ai giovani. La seconda redenzione di Trieste italiana, un anniversario verso il futuro, è infatti il titolo. Il presidente Paolo Sardo Salbertini. È un dato importante sicuramente per Trieste e quindi per i giovani triestini, ma anche per tutti i giovani italiani. All'epoca, in quelle giornate, era tutta l'Italia che partecipava. L'evento del ritorno di Trieste all'Italia era sentito come un ritrovare la città perduta, una città seguita da tutti gli italiani con tanto affetto e con tanto amore. Il tutto affrontato in uno spirito di estrema unità, non c'era una divisione, era tutte le città, al nord, al centro, al sud e tutte le forze politiche a festeggiare, a commuoversi, a ricordare. Nella rassegna, aperta al pubblico fino al 30 ottobre, inedite fotografie d'epoca, una rassegna stampa dei principali giornali e quotidiani di allora, divise militari originali indossate dalle forze dell'ordine che in quegli anni operavano a Trieste. La cerimonia principale del 70° anniversario del ritorno della città all'Italia, sabato 26 ottobre, nella sala del Consiglio Comunale, preceduta dall'alzabandiera in Piazza Unità. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si intitola L'avvocato dell'atomo in difesa dell'energia nucleare e il saggio del divulgatore scientifico Luca Romano. Ne parlerà oggi ad Azzano Decimo nell'ambito del cartellone Fuori Città Autunno alla Casa dello Studente. L'inizio alle 20.45. Abbiamo sentito Romano per chiedergli perché sostenga il nucleare. La forma di energia in assoluto con il minor impatto ambientale, sia dal punto di vista delle emissioni che della produzione di rifiuti, e la forma di energia in assoluto più sicura, e la forma di energia che richiede la quantità inferiore di materie prime e che consuma meno suolo di tutte. C'è il problema delle scorie, no? Si producono delle scorie che sono un quantitativo molto esiguo di materiale rispetto a qualunque altra forma di energia. Ovviamente si tratta di materiali la cui gestione è complessa, ma noi gestiamo comunque materiali tossici ben più pericolosi con l'industria chimica, petrolchimica e via dicendo, quindi si sono sempre gestite bene, parliamo di quantità estremamente misere che vanno raffrontate con i rifiuti che vengono prodotti dalle altre fonti di energia. Quando si parla di scorie nucleari sembra sempre che le altre forme di energia non producano rifiuti tossici e non inquinino, non è così. Come potrebbe l'Italia riagganciare il nucleare? Evidentemente la prima cosa da fare è gestire i rifiuti radioattivi che noi già produciamo da ospedali e industrie con la costruzione del deposito nazionale, il cui iter è fermo al Ministero da un po' di tempo, da aprile dell'anno scorso. Poi quello che serve è una normativa che consenta la costruzione di impianti nucleari, impianti per la produzione di energia nucleare, definisca i criteri per la localizzazione e a quel punto si potranno iniziare a fare studi di fattibilità in diversi luoghi, si trovano i finanziamenti, pubblici o privati che siano, si fa un appalto, si seleziona un fornitore e si procede con i lavori. Non è complicato fare una cosa partendo da una tecnologia che quando sarà pronta la produzione sarà già molto più evoluta? Perché sarà già molto più evoluta? Oggi la tecnologia che c'è, su cui stanno investendo un sacco di paesi nel mondo, la terza generazione avanzata e la quarta generazione che non sono in competizione perché fanno cose diverse, sono le tecnologie in cui stanno investendo tutti. Solo in Europa 7-8 paesi hanno in programma di costruire centrali nei prossimi 10 anni, perché se ci investiamo noi dovrebbe essere obsoleta. Ancora alcune presentazioni di libri a Monfalcone Alceste Santuari, professore di diritto dell'economia all'Università di Bologna, presenterà il suo volume Diritto delle organizzazioni socialmente responsabili, manuale degli enti del terzo settore, delle cooperative, delle società benefit e dei loro rapporti con la pubblica amministrazione alle 17.30 nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone. Alla libreria Lovat di Trieste, Francesca Tumiati presenta Un'allegria di troppo con Alessandro Mezzena Lona alle 18. Giovanna Rodda presenta il suo libro Triade in dialogo con Cristina Serra alle 18 all'Antico Caffè San Marco di Trieste. Insegnare a fare il latte in maniera sostenibile, sicura e vantaggiosa per l'ambiente. Il processo Milk Bora, messo in campo dalla ONG Manitese insieme all'Università di Udine, esporta in Kenya la professionalità e l'esperienza friulana nel settore lattiero-caseario per supportare i piccoli allevatori e produttori locali. L'obiettivo è migliorare le condizioni economiche delle comunità rurali della contea di Nakuru, nella zona della Rift Valley. Abbiamo sentito Edi Piasentiere, direttore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari e Ambientali tali animali dell'Università di Udine, per sapere quante persone hanno aiutato finora. Il programma prevede 200, noi siamo entrati in contatto fino adesso con 25 aziende, piccoli appunto produttori, di cui abbiamo raccolto i dati e le informazioni e verso le quali appunto inizialmente cominceremo questo programma di formazione. Teniamo presente che Manitese è comunque presente nell'area già da diversi anni, quindi noi ci colleghiamo mettendo a disposizione le nostre competenze in un'attività che la ONG sta implementando con impegno da diversi anni. Il problema fondamentale è l'alimentazione e la gestione del bestiame. Sono animali che sono stati quelli con cui si realizza la produzione, sono soprattutto frisoni che sono stati importati qualche decina di anni fa, no, nel paese. ma che hanno livelli di produzione di 3-4 litri al giorno, quindi si tratta di migliorare la produzione, almeno raddoppiarla, ci proponiamo un aumento del 20% della produzione, di farlo con anche una consapevolezza di quelle che sono le pratiche sostenibili, di quelle che sono le pratiche che assicurano poi anche di migliorare le condizioni di vita degli animali dal punto di vista igienico, dell'alimentazione, e poi ci proponiamo di fornire elementi utili per la raccolta e la conservazione del latte e anche la sua successiva valorizzazione. Come fare il formaggio, per esempio? Fino adesso il latte viene raccolto, c'è un centro poi di distribuzione del latte e quindi questi sono importanti aspetti che vanno implementati. Ancora alcuni appuntamenti per il progetto multidisciplinare Duino Trieste 1954 promosso da Gruppo Armada Flavio Vidonis e sostenuto dalla Regione. Diego De Castro, biografia, opere e ruolo nei moti del 53 a cura di Ezio Gentilcore allo Spazio Culturale di Borgo San Mauro a Sistiana alle 18. Modelli di linguaggio avanzati, applicazioni dell'AI generativa nei processi aziendali, il tema su cui si confronteranno gli artigiani della provincia di Udine su iniziativa del movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Udine alle 18 a Villa Nacchin di Corno di Rosazzo. A guidare gli imprenditori sarà Paolo Omero, fondatore di Info Factory, nata nel 2003 come spin-off del laboratorio di intelligenza artificiale dell'Università di Udine. Cura, vicinanza e empatia, quesiti etici e valoriali intorno a cui si snoda la riflessione della conferenza pubblica Prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe, la relazione autentica organizzata a Udine dall'associazione La Bioteca di Via Villa Glori alle 18, relatrice Irene Giurovic. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, alla parte tecnica Bruno Montevecchi ed Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.